Allora, se mi consentite, direi di incominciare, anche perché è consuetudine di questi convegni, vero, il poco tempo che c'è a disposizione tra questo pomeriggio e quello di domani, utilizzarlo al 100%, quello è ormai una consuetudine obbligante fra noi. Al punto tale che sarebbe anche superfluo una parola introduttoria, come sto per dire, tanto ormai in questo convegno sappiamo, vero, come si impostano le cose, come si svolgono, eccetera. È il più antico dei convegni del nostro istituto e, dico anche la sincera verità, il più caro e il più stimato. Ancora oggi basta vedere la serie degli atti che abbiamo pubblicato. E così potrei anche esimermi di ripetere un saluto, però non so esimermi dall'esprimere il piacere di rivedervi quasi tutti, vero, qui, insomma, facce che ormai da tempo ci conosciamo e ci rivediamo, e quindi devo dire proprio il piacere di questo reincontrarci e il piacere di incontrare anche gli altri che per la prima volta nuovi intervengono e potranno sentire dagli amici che li hanno condotti anche quelli che sono i nostri criteri e il nostro stile di lavoro. Dopo devo ovviamente dire il ringraziamento più affettuoso ai due che hanno preparato questo convegno. Ecco, al piacere di cui ho detto corrisponde anche questo mazzo di fiori, benché non sia fatto per noi, ma è stato fatto per l'assemblea festiva che abbiamo avuto qui ieri per il conferimento dei primi diplomi dell'istituto. Sono ancora freschi e insomma vi prego di gradirli anche per questa occasione. E invece stavo dicendo che la riconoscenza va in modo particolare al nostro presidente dell'istituto, vero Monsignor Luigi Sartori, che ho piacere di avere anche questa volta tra noi, non solo materialiter ma anche formaliter, perché nelle discussioni che abbiamo avuto sono state non poche e non indifferenti sulla impostazione della tematica, che da prima si profilava piuttosto generica, insomma, nell'occasione del centenario e così via, per individuare all'interno di questo quadro una tematica che sia propria alle dimensioni e alle ricerche, alle riflessioni del nostro istituto, non è stata molto facile e in questo veramente, insomma, la riflessione sia del presidente Monsignor Sartori sia del nostro caro Don Donato Valentini, vero, è stata lunga, accurata, competente e ha portato alla maturazione di quel programma che adesso voi avete in mano. Io, detto questo, non ho altro da dire, veramente vorrei consegnare la conduzione del treno al presidente Monsignor Sartori e alla sua mano destra il caro Don Valentini, in modo che provvedano loro anche all'ulteriore conduzione dell'orario stesso e così via, insomma, all'assegnazione, alla presentazione degli oratori, eccetera. Auguro a tutti buon lavoro e buon ascolto. Comincio anch'io ringraziando i fiori, e dei fiori, anche se non sono nostri, stanno diventando nostri. Ringrazio l'Istituto che ha permesso questo incontro che ritengo importante. Ringrazio soprattutto i relatori che sono stati captati da molte diverse lontane parti del mondo, oltre che dai amici più vicini. Ringrazio in questo momento soprattutto Don Donato Valentini. Io ho fatto un po' l'impostatore così generico del gruppo e del lavoro, però colui che ha trafficato, ha lavorato, ha sudato, non avete l'idea di quanto abbia faticato, è stato proprio Don Donato Valentini. Se sarà qui presente in questo momento, ma comunque so che viene, Don Gibellini, il direttore della Querignana, ecco, vi dico che Don Donato è un salesiano che ha lavorato molto e non ha inteso, scherziamo qui alle sue battute, non ha inteso privilegiare i salesiani in questo convegno, ma ha lavorato con passione come trentino, come membro di diritto di questa forte iniziativa che nasce da Trento. Molte, infinite quasi, sono le commemorazioni del centenario della scoperta, come si dice, o meno, dell'America. Molte, moltissime, riviste missionarie, case editrici. Io ho portato qui i due ultimi volumi, un volumetto pubblicato appunto dalla Querignana. Speravamo di avere, per suggerimento del CEIA di Verona, tra di noi lo storico Dussel, Enrique Dussel, il quale ha appena pubblicato presso la Querignana la storia della Chiesa in America Latina. Poi c'è un bellissimo libretto di Elizondo, La Via della Croce, dove le 14 stazioni della Croce sono state dedicate, meglio, sono state affidate a 14 teologi e teologhe dell'America Latina, quasi tutti dell'America Latina, per commentare questa via crucis dei nostri fratelli dell'America Latina nel centenario della scoperta. Era indicato, mi pare, anche la pubblicazione di un libro suo di Elia Curia, il grande gesuita che è stato ucciso, dove? Nell'università di Salvador. Ma poi tante altre pubblicazioni sono state, che ragguagliano sulle i convegni fatti, eccetera, eccetera. E quindi la difficoltà è anche quella di trovare l'originalità. Segnalo con gioia che qui abbiamo presente anche l'autore di un volumetto che purtroppo non ha fatto in tempo ad essere edito dal Messaggero, è un nostro fratello, di Mario Cagiota di Montevideo, dell'Uruguay, qui presente, dopo lo avremo modo di salutarlo, e fra poco, fra due mesi, tre, uscirà il suo libro La sfida dell'utopia nel mondo nuovo, che tratta soprattutto della presenza riflessa dei teologi, degli missionari francescani nella storia dell'America Latina. In questo momento poi ringrazio con infinita gratitudine, proprio carità e amicizia, gli amici del CEIAL, i quali mi sono stati molto vicini nell'organizzare questo. E loro hanno a disposizione, noi non lo sappiamo, insomma, lo diremo alla fine di questo convegno domani sera, in un'intervista che io farò al carissimo Don Mario Agazzi, abbiamo in Italia la possibilità di continuare l'incontro con i nostri fratelli che vengono dal 1492. Il CEIAL è un organismo preziosissimo, ecclesiale, che collega in perpetuo, speriamo, l'America Latina e l'Italia, la Chiesa italiana. Essi hanno addirittura lì, non lo sappiamo, un centro di documentazione strepitoso che raccoglie tutti i dati, gli articoli che vengono pubblicati intorno a questo tema. Io ho chiesto a loro, vedremo se per gli atti, e riusciremo anche a fare, per esempio, oltre alle conferenze che saranno purtroppo solo poche qui, se riusciremo a fare anche un bilancio critico degli interventi dell'Episcopato, sia dell'America Latina che dell'America del Nord e di altri continenti, circa questo avvenimento, questo problema della nuova inculturazione in America Latina. Un bilancio critico, io qui ho portato un immenso, se volete guardare, un immenso materiale, o meglio, immenso per noi, ma è appena una piccola parte della documentazione che essi raccolgono al CEI e al di Verona, per ciò che riguarda l'America Latina. E appunto chiedevo a loro eventualmente l'ipotesi di aiuto per negli atti eventuali che noi pubblicheremo di questo incontro, di inserire un ragguaglio critico, informativo critico sugli interventi del Magistero nell'America Latina, naturalmente attuale, soprattutto per ciò che riguarda il prossimo convegno, l'Assemblea di Santo Domingo, che mi pare cominci proprio dal 12 ottobre in avanti. E poi una cosa interessantissima, probabilmente nel dibattito domani mattina salterà fuori anche una lettura critica di quel misterioso intervento della Madonna di Guadalupe, che sembra essere una specie di incentivo quasi preistorico rispetto alla coscienza teologica, di una inculturazione dell'America Latina. Ecco, un intervento sa interesse, non anche volumetti che sono stati predisposti per questo. Dunque qui li ringrazio. Ma a questo punto io vengo a indicare ciò che vorrebbe essere l'originalità, l'impostazione originale di questo nostro incontro. Noi non vorremmo almeno mettere al primo posto, probabilmente salterà fuori nel dibattito di domani questo problema, ma non vorremmo mettere al primo posto la dialettica di giudizio sulla conquista dell'America. Noi sappiamo che sono spartite o tripartite le posizioni dagli apologeti ai feroci aggressori di questo evento della scoperta dell'America Latina. Noi non vorremmo entrare in questo dibattito che mi sembra essere il più diffuso nella pubblicistica di oggi. Nemmeno vorremmo immediatamente discutere sulle scelte attuali, pastorali dell'America Latina, che sembrano oggi prendere di petto quell'idea che avrebbe dovuto essere presente alla Chiesa in quel momento. Sembrano cioè quasi rifare quella storia o raddrizzare quella storia che non è stata fatta o è stata fatta non dritta da quell'epoca in avanti, al di là di alcuni pionieri. Noi invece vorremmo veramente riservare la nostra attenzione sulla teologia, sul momento del pensiero riflesso, della coscienza, se volete anche implicita, ma comunque di una coscienza che almeno ha avuto nelle minoranze profetiche alcune voci espressive, forse, ripeto, minoranze che non hanno vinto. Per ciò che riguarda l'atteggiamento della Chiesa di fronte a questo evento e a questo fatto poi del nuovo mondo, interrogheremo soprattutto la missionarietà esercitata, domandandoci se almeno a livello embrionale, in alcuni, in minoranza, si sia stata la coscienza dell'esigenza di una nuova ermeneutica della fede di fronte al nuovo. È stata messa in evidenza questa problematica della inculturazione, come la chiamiamo noi, dell'esigenza di ripensare la fede, non esportando la fede già inculturata, quindi colonizzando, ma di fronte a un nuovo mondo, una nuova cultura, nuovo nel senso proprio radicale del termine, rispetto ai mondi conosciuti prima, diversi dal cristianesimo, islamico, arabo, musulmano, ebraico, eccetera. Ma un ripensamento globale, radicale della fede, e poi un'impostazione della Chiesa secondo una nuova forma, una forma inculturata, ecco la domanda che noi ci poniamo. Difatti il titolo del nostro incontro è 1492, fermenti eventuali di nuova teologia, intesa proprio come coscienza di fede inculturata, reinterpretata e di Chiesa incarnata in nuove forme nel e dal nuovo mondo, per intendere sia un'operazione che potrebbe essere stata germinalmente fatta lì, almeno germinalmente, come, sia in quanto riflessa qui, riprodotta qui. Ecco perché noi abbiamo messo in evidenza soprattutto le scuole missionarie legate prevalentemente al mondo dei religiosi, la missionarietà francescana, quella dei gesuiti, quella dei salesiani e quella dei domenicani. Ecco, questa sarebbe la nostra ipotesi o presunzione, di far uscire da questo nostro incontro più che argomenti pro o contro questa conquista, questa colonizzazione, questa scoperta dell'America, eccetera, cavare invece elementi per un processo che affatica oggi tutta la Chiesa e non solo la Chiesa dell'America Latina, e sarà il punto dolente di tutta l'impostazione della teologia, della fede, della Chiesa e della pastorale e della missionalità di domani. Bene, come viene organizzato questo nostro incontro? Due sono i momenti generici, anzi prima vi ho messo una impostazione globale, avere almeno un'ottica che questa problematica la legga, la interpreti in una visione veramente generale. Lo status questionis di questo problema l'abbiamo affidato al carissimo amico Ormino Rizzi, il quale fa teologia spesso molto speculativa, direi uno dei pensatori più forti che abbiamo in Italia, più grandi che abbiamo in Italia, che può gareggiare con pensatori del calibro di Levinas e di altri sul tema dell'altro, in mente il suo libro prezioso Europa e l'altro, ma è uno il quale non riflette, pur essendo partito da posizioni molto interessate alla metafisica, all'ontologia, altre cose, un pensatore che riflette sui fatti dell'Europa, come ho accennato, ma anche dell'America, dove è stato latina, ed è interessato in un volumetto che raccoglie in convegno tenuto Quaderni EMI Sud sezione ASADU, cioè di Firenze, dove ricordo, qui voglio ricordarlo, anche ha introdotto tutto il dibattito Ernesto Balducci, in questo senso in questo momento voglio anche ricordarlo, dove troviamo i nomi di Castiglio, Pires, Acosta, Nesti, Dussel, Ribeiro, Antiveros, Antiveros, non so. Ecco, lui ha scritto un articolo già, ma io penso che questa volta avrà preso una possibilità di aprire gli orizzonti. Dunque lui ci darà un status questionis. Avrà tempo fino quando vuole, fino alle 5, la sua relazione, e poi almeno mezz'ora di dibattito. L'unica relazione alla quale alleghiamo un immediato dibattito è la sua, perché è quella di impostazione generale. Poi invece avremo le quattro relazioni, due questa sera, anche qui di queste due di questa sera, la prima è sui generis, affidata, presenterà poi Don Donato Valentini, gli oratori, affidata a Don Braido di Roma, il quale ha studiato lunghissimamente, profondissimamente questo interessante tema, che riguarda più la Chiesa, diciamo, ufficiale, i sinodi e i catechismi sviluppatisi nell'America dopo la conquista, diciamo subito la parola, dopo la conquista, per vedere se lì c'è stata questa coscienza di novità di cui ho accennato prima. Dopo la sua impostazione non ci sarà il dibattito, ma verrà allegata l'altra delle altre quattro relazioni, l'altra voce delle altre quattro relazioni, di quattro mondi missionari, i francescani stasera. E appunto parlerà per questo tema di francescani l'amico padre conventuale di Padova, Francesco Beltrame, il quale appunto mi ha segnalato anche l'amico Mario Cagiota, che è qui presente, che è l'autore di quel volume sul francescanesimo nell'America Latina, che ringraziamo in anticipo. Poi invece domani mattina ascolteremo la voce di altri due mondi missionari, quello dei gesuiti e poi quello dei salesiani. Abbiamo riservato invece, quasi staccandola, al pomeriggio la relazione che riguarda la missionarietà di domenicani, perché essa rappresenta più l'attenzione anche a ciò che è avvenuto nel nostro mondo, la scuola di Salamanca, domenicani quindi e scuola di Salamanca, come reazione veramente rivoluzionaria questa nel campo del diritto internazionale e di un tema attualissimo come quello dei diritti umani oggi. Quindi allora abbiamo queste quattro voci, ma distribuite in questa maniera, una questa sera i francescani, domani mattina gesuiti e salesiani, il pomeriggio i domenicani per il motivo che vi ho detto. Avremo la discussione globale sulle quattro relazioni, come trovate di Don Braido, di Padre Beltrame, di Padre Morales e Padre Bottasso, che saranno presentati tutti da Don Donato, i quali ha contattati, almeno tre direttamente, con lunghe, intense telefonate di cattura, astuta, furba, ecco, ma anche nello stesso tempo appassionata. Allora avremo dalle 10.45 di domani mattina fino alle 12.30, 12.15, 12.15, quasi due ore di dibattito, dove usciranno anche altri problemi probabilmente. E così abbiamo allegato alla discussione che interessa più anche la reazione alla scuola di Salamanca nel nostro mondo, un po' di dibattito al pomeriggio di domani dopo la relazione di padre Jesús Ángel Barrera, perché non ci vedo bene, Barrera. Invece, per conclusione, io ho pensato di dare due conclusioni, una brevissima, un quarto d'ora di intervista, farò un'intervista all'amico Don Mario Agazzi del CEIA di Verona, il quale ha già allestito una bellissima sua risposta di 27 pagine, ma a livello di interviste in un quarto d'ora farà risposta a 4-5 mie domande per illustrarci la fondazione teologica che guida il cammino di esperienza di questo CEIAL, che non è un organismo soltanto strumentale, ma sembra quasi una piccola oasi dove l'ecclesiologia di riflesso dell'America Latina, della Chiesa italiana per l'America Latina, sembra già un vissuto. E poi le ultime battute di una mezz'ora di conclusione le do a colui che ha più lavorato di me in questa organizzazione, a Don Donato Valentini. Ecco, quindi siamo arrivati proprio per tempo alle ore 16.